Uno, nessuno e 100 Milan, un programma condotto da Alessandro Milan e Leonardo Manera, quando ne ha voglia. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Signori, siamo qui 9-8 minuti a chiudere questa settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Ci siamo fino alle 11. Le venerdì. Ho capito, ma questo entusiasmo che c'era una volta di quelli che ci scrivevano è venerdì, quindi per molti finisce la giornata lavorativa, la settimana lavorativa, adesso è un entusiasmo che si è un po' sopito, perché c'è un po' invece altro tipi, ci sono altri tipi di timori. Però siamo qui con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Alpino in regia. E signori, oggi accolto, metti una canzone allegra, no? Perché sennò tre volte così accolto con la marcia funebre, non lui, ma per la situazione, torna con noi Mario Calabresi, eccolo qua. Buongiorno a tutti. Gli applausi che ormai andranno di moda in TV, insomma, d'altronde, la corrida ha chiuso. Tutti i programmi sono senza pubblico. I soliti ignoti prosegue, ma senza pubblico. Senza pubblico, e quindi mettono questi applausi, queste... Vagamente di un sentore finto. Senti l'entusiasmo della redazione, sì. Quando è arrivato Mario Calabresi l'abbiamo visto in fondo al corridoio. Si è disinfettato le mani. Questo quando mi sono disinfettato le mani. E quando è stata proclamata la sua temperatura. Perché qui all'interno 36,5. Io gli ho detto, però Milan a 36,3. Io sto un pochino meglio. Oppure sei più gelido. O sono più gelido, sono più freddo, sono un tipo freddo. No, perché giustamente va detto qui al Sole 24 Ore, come in tanti posti di lavoro, si misura la temperatura, se hai la febbre non ti fanno entrare. 9 minuti, come hai capito, parleremo di questo, dai. Vai Alpino, parti. Enthusiasm. About the future. Non solo di questo. Tanto Mario, ti voglio chiedere questo: ma il presidente Mattarella che parla alla nazione, beh, non è un qualcosa di che avviene solitamente, no? Però ha voluto tranquillizzare, ce la faremo, un senso di compattezza. E se uno dice messaggio alla nazione, potrebbe anche immaginare che questo sia allarmante. Invece, secondo me, il tono, la lunghezza del messaggio, che non era un messaggio troppo lungo, era sintetico. Sì. Il tono mi sembravano rassicuranti e anche doverosi. Ha fatto un messaggio. Fatto bene, cioè a dire ce la faremo. Seguite le regole. E quindi, insomma. E ha detto una cosa fondamentale dal punto di vista anche politico e istituzionale. La traduco dal mattarellese. Non saranno più tollerati. Mattarellese, no, cioè adesso. Lui è ma stanno uscendo formale. Anche i vocabolari. È mattarellese. Non italiano. Saranno più tollerati le città, i comuni, le regioni, le comunità che fanno degli strappi e fanno delle regole da soli. In una situazione così ci sono delle regole per tutti, non è che una regione decide non accoglie quelli di un'altra regione, un'altra dice chiudiamo le scuole, le riapriamo. No, ci sono degli standard nazionali che vengono decisi sentendo i pareri degli esperti e a quelli ci si attiene tutti. Anche perché ormai, come hanno scritto tutti i giornali, non c'è regione che sia immune da questo virus. Ieri era la Val d'Aosta, ma sono arrivati i primi due casi, quindi ormai è un problema italiano. Che sia stato uno studente che tornava da Piacenza, così dicono, uno studente da Piacenza, alle SAL, ma in altri comuni vicini. Comunque non c'è una regione che non conosca questo problema. È chiaro, ci sono delle regioni, la Lombardia, il Veneto, che lo conoscono in maniera più intensa, l'Emilia Romagna, però ormai è in tutta Italia, è un problema italiano, e quindi bisogna... È un problema italiano e ogni giorno vediamo di più che è un problema europeo e mondiale. Infatti io voglio farti partire dagli Stati Uniti, dai tuoi amati Stati Uniti d'America, dove c'è un cittadino onorario degli Stati Uniti, conosciuto, Vasco Rossi. Bene, sì, Vasco Rossi in questi giorni è a Los Angeles, non lo so perché, per motivi di lavoro o di vacanza, vai a saperlo, e Vasco Rossi ha fatto notare che c'è un motivo per cui il coronavirus, come lo chiamerebbero lì giustamente in questo caso, il coronavirus non è intercettato. Strano che proprio qui non ci siano tanti casi di coronavirus, perché i tamponi costano 3.200 euro l'uno, dollari, per cui saranno pochi quelli che lo faranno e quindi pochi casi che verranno accertati. Meditate, gente, meditate. Meditate, ecco l'attenzione, la filosofia di Vasco Rossi. Meditate, gente, meditate. Ma davvero, cioè, sai che si dibatte molto sulla sanità americana, tu che hai vissuto in America. È davvero così? Cioè, di fronte a un'emergenza del genere, io non so, voglio credere che uno debba spendere 3.200 dollari per fare il tampone. Coppie, un padre e una figlia che stavano a Wuhan, che sono stati portati a casa dal ponte aereo americano, messi in una base della California dei Marines in quarantena. Sì. A un certo punto la figlia inizia a tossire, quindi dalla quarantena vengono portati, obbligati ad entrare in ospedale in isolamento in ospedale. Ci stanno per una settimana e dopo una settimana capiscono, gli fanno il tampone e vedono che non hanno niente. Escono, tornano prima nella quarantena dei militari e poi tornano a casa. Gli è arrivato il conto dell'ospedale. Il padre dice, lo diceva il New York Times, oh, scusate, a me mi hanno obbligato ad andare esatto. lì, perché non avevamo niente. Bada, gli è arrivato il conto dell'ospedale, di cui per esempio solo il trasporto in ambulanza erano 2.700 dollari. Poi c'era certo, la radiografia alla bambina. Se fosse il conto in Italia, anche quelli sarebbero più o meno i conti. Sono però questi i costi. Il problema è che no, cioè il vantaggio è che noi abbiamo infatti un sistema sanitario io quando ottimo. Vedi la storia americana, il punto qual è? Se ti obbligano, probabilmente sanità pubblica in America ne esiste pochissima, è tutta sanità privata, ci sono le assicurazioni. Questo avrà un impatto e un effetto difficilissimo da gestire negli Stati Uniti, e noi ogni tanto dovremmo ricordarci che il sistema sanitario nazionale che abbiamo in Italia è una grandissima invenzione di civiltà. Guarda che foto che ci arriva da un ascoltatore, questa è la metropolitana di Milano in questo momento alle ore 9, praticamente una metro c'è deserta. C'è più gente in questa stanza dove stiamo registrando. Sì, esatto. Guarda, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 persone su una metropolitana che è lunga 50-60 metri. È incredibile, ma infatti vorrei chiedere questo a voi ascoltatori prima di andare ai nostri ospiti all'800240024, ma voi come avete cambiato il vostro stile di vita? Che cosa concretamente non fate o fate in maniera diversa rispetto a 10 giorni fa? Dai, se siete sintetici ne possiamo sentire tanti. Esatto, voi diteci proprio, se volete scrivercelo anche al 349-238-6666 va bene, ma siccome ci piace anche un po' il contatto umano, tanto siamo al telefono, stiamo a distanza, se ci chiamate è meglio, 800240024, ce lo dite, ce lo raccontate, che ne so, non vado a trovare i nonni. Sai che per esempio c'è il dramma di molti che non riescono a ad andare a trovare i genitori che stanno magari in una casa di riposo, perché è vietato. Emanuele Fiano l'ha scritto, no? Ai genitori, l'ha scritto in un post molto anche commovente, lui l'abbiamo parlato tante volte, figlio di Nedo Fiano, in casa di riposo, sopravvissuto ad Auschwitz. Nedo Fiano dice, e come faccio a spiegare ai miei genitori che non posso andare ad abbracciarli e salutare, sembra che io li abbia abbandonati. È così moltissimi italiani, invece no, non, e d'altronde queste sono anche le regole. Ci sono strutture che dicono limitiamo le visite, le contingentiamo. È un po' così. Gli anziani sono un po' gli anziani, i disabili, penso a tutte le categorie veramente svantaggiate, no, di solito e di più in questa situazione. È incredibile. Eppure è così. Allora, c'è anche questo altro tema, Mario. La questione del paziente zero. Sai che allora, ieri leggevo sulla Verità, ma poi oggi Repubblica con Riccardo Luna dedica una pagina. C'è tutta questa vicenda del paziente tedesco, come viene definito, cioè questa multinazionale, la Webasto, che ha filiali a Torino e Bologna, i 541 dipendenti in Italia, per dire. E il primo che si è infettato, ormai la catena viene un po' ricostruita, lo farebbe benissimo David Quammen nel libro che ci hai suggerito settimana scorsa, ha detto che c'è un primo caso evidentemente di questo tedesco, perché hanno filiali anche a Wuhan, si è infettato a inizio gennaio e forse è partito tutto da lì. Ah, dovremmo fare guerra alla Germania. No, non facciamo guerra alla Germania. Diciamo che questa cosa, io non lo so se mi sbaglio o sento che in questo momento, comunque, tranne qualche caso, ci sia in Italia una sensazione di comunità, seppur ognuno a casa sua, sì, di comunità superiore che nei mesi, negli anni scorsi. C'è da augurarsi che questo accada in Europa. Per il momento non si stanno vedendo scene in Europa, appunto, di l'Italia messa all'indice. C'è questo servizio della CNN, è stato un po' brutto, no? C'è questa mappa con l'Italia al centro. Sì, però, da lì è però nato non, tutto. Sto parlando di Europa, appunto. Sì, sì. lasciamo perdere quelle cose lì, la pizza francese, sì, perché secondo me non fanno testo. Ma dal punto di vista del rapporto con gli altri paesi, quando sono stati i vertici dei ministri della sanità, non c'è stato nessuno che ha detto chiudiamo le frontiere all'Italia. Per cui guerre di religione, questa è una malattia globale. Certo. C'è chi ha la sfortuna di averla presa, c'è chi se la porta in giro non se n'è nemmeno accorto e magari l'ha fatta senza accorgersene, lo scopriremo eventualmente dai suoi anticorpi, magari se l'abbiamo fatta noi, non lo possiamo sapere. La civiltà, secondo me, di un continente si misura in questo momento su questo. Sì. Io devo dire che se noi guardiamo a quello che sta accadendo in due posti, uno nelle scuole, quanti insegnanti stanno facendo un lavoro straordinario di incoraggiare i ragazzi, di scrivere sulle famose chat di WhatsApp, che io ho sempre trovato delle cose tragiche adesso e orrende, invece sono una salvezza con insegnanti che ogni giorno scrivono. Io vedo, non so, per esempio un insegnante delle mie figlie di francese che la mattina e il pomeriggio chiama e dice fate questo piccolo compitino, me lo mandate sulla chat di WhatsApp. È un tema che ieri abbiamo affrontato. Ieri si è scatenato anche qui un dibattito tra chi accusa gli insegnanti e tanto avete, come dire, siete al calduccio e pagati lo stesso, e molti insegnanti ci hanno chiamato sdegnati. Ma io dire, guardo, io invece passo io trovo ore, passo che in questo ore ogni momento giorno gli insegnanti, oltre naturalmente che tutto il personale medico e infermieristico, cioè, in questo momento in Lombardia, in Emilia, nei posti in cui c'è più, che sono più sotto tensione, ma stanno lavorando in maniera con un'abnegazione totale, con un'abnegazione totale. Guarda, adesso ci colleghiamo con la prima ospite che è un graditissimo ritorno, però devo dire che gli ascoltatori già ci dicono io ho sospeso gli appuntamenti nello studio legale, io andavo a fare la salsa come ogni ballo, ogni venerdì era uno sfogo, ora è terribile, fino al 3 aprile hanno già sospeso tutto e quindi niente, io non vado più in mensa. Come avete cambiate la vostra vita quotidiana? Ce lo dite in audio al 349-238-6666, ma anche chiamateci all'800 24 00 24. Forse vi ricorderete, cari ascoltatori, che tutto è iniziato dalla Cina, da Wuhan. Sara Platto, buongiorno Sara, anzi buonasera Sara. Salve, salve a lei. Sara Platto è veterinaria, lavora da lì da anni, vive a Wuhan, e tutto è iniziato da lì. Si ricorda quando la chiamavamo, tanto dicevamo ma tanto è in Cina questo problema, è in Cina, è lontano, è in Cina. Adesso è lei che ci deve chiedere informazioni, a noi non sappiamo che cosa le possiamo dire, che cosa no. Esatto, come si sta intanto a Wuhan? La situazione è migliorata? Sì, moltissimo, è migliorata tantissimo, i numeri sono ottimi e la prossima settimana, l'11 di marzo, la città molto lentamente riprenderà, inizieranno a lavorare le persone chiave, diciamo così, importanti delle aziende, pian pianino verranno trasportate le aziende con pulmini appunto privati, i mezzi non funzioneranno ancora fino, penso, verso la fine, fino alla fine di marzo, però pian pianino la città verrà, insomma, riattivata. Vuol dire tre mesi, dobbiamo metterci in quest'ottica, secondo lei, anche qui in Italia, 2-3 mesi di sacrifici? Un paio di mesi? Ma nel senso che io non penso che l'Italia arrivi ai livelli a cui siamo arrivati noi qui, per cui no. Allora deve anche considerare che, ecco, molte persone mi hanno contattato chiedendomi consigli, cosa fare, cosa non fare, tutti in ansia. Io la cosa che ho detto è la vostra fortuna è che avete un sistema sanitario comunque che funziona molto bene e ottimo, per cui è una cosa importante. Seconda cosa, da anche i dati emessi da le persone della WHO, dagli esperti della WHO che sono venuti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono venuti qui a Wuhan, ed è stato appunto è scaturito che l'80% dei casi comunque avvenuti a Wuhan di coronavirus sono stati casi lievi. Quindi insomma, certo, è un ottimo numero. Di conseguenza, quello che io dico a tutte le persone che mi contattano è: state tranquilli, se dovesse avere la tosse, il raffreddore o la febbre, non preoccupatevi, la cosa importante è di prendersi cura dei vostri nonni, delle persone anziane, perché sono le categorie più colpite e, diciamo così, più sensibili. Sì, l'abbiamo detto, perché è vero che si registrano soprattutto, e qui Mario si dice, lo si dice per cronaca, perché è il dato di fatto, cioè le persone che muoiono di più sono le persone più fragili, quelli, non solo gli anziani, anche magari gli immunodepressi, quelli che fanno fatica. E qui si è innestato un dibattito, come dire, ah vabbè, sono anziani. No, questo è odioso come concetto. Non è neanche stato un dibattito. No, non è stato un dibattito, però molti lo dicevano, però sono anziani, dicendo, come dire, io invece mi sento in salute, quindi mi sento un po' più protetto. In realtà è ovvio che... però succede così, no? Sara Platto, c'è un dato di fatto. Sì, no, assolutamente, la cosa importante è non farsi prendere dal panico, e seguire le misure di protezione basilari. Quindi io ho sentito un sacco di persone che ma io non ho la mascherina. No, la mascherina è una forma di protezione, non solo devono portarla chi è tra virgolette malato, ha i sintomi, ma anche le persone sane, soprattutto se si va in un luogo pubblico. Ovviamente se una persona va al parco non deve metterla, perché insomma se non c'è nessuno va benissimo, il virus non ha la licenza di pilota ancora, quindi insomma la cosa può passa attraverso di noi, certo, sì. non è che prende un aereo, prende un aereo attraverso un essere umano, che lo trasporta, vola così. Esatto, per cui la cosa che consiglio è di portarla se comunque andate in un luogo pubblico dove ci sono delle persone. Però mi faccia capire, le scuole sono riaperte lì a Wuhan o no? No, assolutamente, niente. Le scuole riapriranno, ma tutti noi anche dell'università facciamo i corsi online, tutte le scuole cinesi e non cinesi stanno facendo, mio figlio è da più di un mese che sta facendo la scuola online. E noi universitari abbiamo organizzato da già, nel senso abbiamo cominciato il giorno in cui dovevamo riaprire l'università con i corsi online, e probabilmente andremo avanti fino alla fine del semestre, probabilmente faremo solo gli esami, in università per essere assolutamente sicuri che, perché ovviamente c'è una enorme massa, cioè sono i numeri, sono elevati. Di gente. No, i numeri di infettati sono anche tanti. Sì, però nel senso che deve capire che qui in Cina quando le persone si spostano i numeri sono elevati, per cui studenti universitari delle scuole, faccia conto che una classe elementare ha un minimo di 50 studenti, minimo. Per cui ecco, quindi può capire che insomma il rischio, quindi le scuole inizieranno probabilmente ad aprile, fine aprile, oppure come appunto nel nostro caso noi stiamo addirittura supponendo che faremo solamente gli esami in università. Quello lo vedremo. Intanto Sara Platto, grazie davvero, perché è sempre molto, molto gentile, molto disponibile a raccontarci quello che succede a Wuhan. Caro Mario, guarda, c'è un messaggio per te, un ascoltatore dice: Calabresi, io viaggio per lavoro a Bruxelles, ieri ho ricevuto una mail da un'organizzazione di un convegno a cui ero iscritta per informarmi gentilmente di non partire, di non andare. C'è un po'... Vabbè, ma voglio dire, scusate, non si fanno più in Italia? Noi facciamo così, io avevo 23 presentazioni di libri, mi sono state cancellate tutte, anche in luoghi dove non ci sarebbero problemi, certo. Oggi sarei dovuto andare a Trapani, ok, ma non è mica che mi offendo, penso che ce l'hanno con me i siciliani perché non si fa la presentazione. Sono misure di precauzione. Allora, ugualmente, se uno c'è un convegno, vengono cancellati tutti i convegni medici, eccetera, eccetera, è normale questo fatto. Cosa dobbiamo fare? Cioè, ma perché uno dovrebbe dire no? Ma perché? Perché io sto bene, sì, perché la gente si sente un po', si offende dicendo: ma no, ma come, per chi mi hai preso, io sto bene? Ma è una misura di precauzione. Tra l'altro, tu hai citato il mondo dell'editoria, sai che stanno già facendo i calcoli, si parla di 50%, sì, 60% c'è chi dice 35%, c'è chi dice 50%. Tanto che Caro Figlio ha lanciato per esempio l'idea di dire andate in una libreria e comprate un qualsiasi libro, insomma, per far vedere, sì. mi sosteniamo da dire, tu sai il quanto settore. Ci tengo ai libri, però allora dobbiamo anche andare in una pizzeria e comprare una pizza, cioè, nel senso, purtroppo se guardiamoci in giro, il deserto che c'è in questo caso soprattutto a Milano e in molte parti del nord sta mettendo in una crisi, in una crisi nerissima. Ma quanti posti di lavoro perderemo? Esatto. Il 90% del traffico aereo è inesistente. Fiumicino, Linate, Malpensa sono completamente deserti. A Malpensa ci sono un decimo dei passeggeri che c'erano soltanto 2 settimane fa. Questo vuol dire tutti i negozi, tutto è tutto assolutamente fermo. Sì. Quindi i libri sono una foto delle della tangenziale ovest di Milano, cioè, vabbè, che è anche un bene a volte se non c'è il traffico, meno male, insomma, prendiamo almeno un bicchiere mezzo pieno su una cosa. Guarda, c'è chi faceva il tango ma non viene, ma Alfredo ci chiama da Bologna. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. No, io cambio le mie abitudini, io tutti gli anni mi reco 15 giorni in Grecia a giugno quando mia moglie ha le vacanze, ha le ferie, e ho già prenotato ovviamente a giugno quando aprono le prenotazioni, però oggi pomeriggio andrò in agenzia perché quest'anno voglio rimanere in Italia, perché visto che si prevedono 31 milioni di turisti in meno da qui a maggio, almeno io non voglio portare... voglio che i miei soldi rimangano... Questo è un tema interessante perché lei sposa un po' la campagna acquista italiano, rilanciamo, sì. Pensiamo a rilanciare noi stessi la nostra economia rinunciando magari ad andare all'estero e facendo le vacanze in Italia. Io vado al mare in Grecia a giugno, se voglio andare al mare posso benissimo andarci anche in Italia, allora quest'anno a maggior ragione mi sacrificherò tra virgolette, perché poi in Sicilia. Stavo pensando adesso oggi pomeriggio vado in agenzia, vedo anche in base alle penali che dovrò pagare per rinunciare a quanto ho già pagato. No, ma è interessante, suppongo... Alfredo, perché lei lo fa anche proprio per scelta di convinzione, di dire certo, rilanciamo l'economia italiana così, con un gesto personale. Non vengono gli stranieri, rimaniamo qui noi almeno, se no noi andiamo all'estero e ci trattano come degli untori, prima cosa, è già questo. E poi non è bello. E poi ne abbiamo bisogno di che rimangano i nostri soldi qui, visto che Milano è vuota perché per tanti motivi. No, ma Alfredo, il tema è interessante. Voglio sentire cosa ne pensa Mario Calabresi, perché noi da 2 o 3 giorni ne parliamo. Che molti politici, alcuni la cavalcano magari in maniera un po' sovranista. Al di là del modo sovranista, l'idea è la stessa cosa di Caro Figlio che dice andate a comprare un libro. Andate, fate una vacanza in Italia per dare una mano all'Italia e alla difficoltà e alla crisi che ci sono. Fatto in modo non ideologico è una bella cosa. Poi a livello circolare c'è il problema di molti che ti diranno ma che vacanze, io col fatto di tenere a casa i figli, adesso vedremo se arriveranno i voucher per le babysitter e devo spendere tutti i soldi per vivere a questo punto perché non ci andrò neanche in vacanza se avrò ancora un posto di lavoro. Ti porto in un campo un po' diverso, credo che per molti ragazzi, per molti giovani, ragazzini magari delle medie, delle elementari, eccetera, questo qui sarà veramente un periodo con una differenza nella vita che ricorderanno per sempre. Come no? Io ricordo la nevicata dell'85, quando crollò il palasporto a Milano. Quando il momento in cui tu non vai a scuola si rompe quella cosa, ma è anche un momento in cui molti bambini sono diventati più grandi e più responsabili rispetto a prima. Quanti genitori si sono trovati nella condizione di dover dire per la prima volta, soprattutto per non fare uscire per esempio i nonni, trovarsi per la prima volta a dire ascolta, questa mattina stai a casa da solo, oppure arrangiatevi, vi lascio pronto e scaldate voi e mangiate voi. Cioè la quantità di persone che sento che dicono io non l'avevo mai lasciato da solo, però cioè, è una condizione eccezionale che sta facendo anche crescere una responsabilità individuale anche dei ragazzini e dei bambini. Speriamo, cioè nel senso che purtroppo attraverso anche questi traumi, piccoli o grandi traumi, si cresce. Si cresce, certamente questo è un periodo, quando finirà, che ci lascerà tutti un po' diversi rispetto a come quando è iniziato, rispetto a quando è iniziato, perché delle abitudini, degli atteggiamenti, anche solo il fatto di aver dovuto sospendere per tot giorni le nostre routine, le nostre quotidianità, ci cambierà moltissimo, credo. Speriamo che ci cambi meglio, ecco, a partire da questa esperienza. Andiamo un attimo a sentire la pubblicità, poi 800 24 00 24, diteci la vostra. Ah, poi Mario Calabresi, c'ha la newsletter, attenzione, c'ha due grandi colpi di cui oggi ci deve parlare. Vi siete già iscritti alla newsletter di Mario Calabresi su mariocalabresi.it o mariocalabresi.com. Non so se anche mariocalabresi.org. No, non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Però come dice l'ascoltatore, andate su mariocalabresi.it, in questo periodo sosteniamo, esatto, l'Italia. Sosteniamo l'Italia, Mario Calabresi. .com è un po' trampiano, come in fondo è lui, è un po' invece sovranista, il povero presidente che non si tocca autarchia più la faccia. Esatto, tra poco lo sentiamo. Trump non si tocca più la faccia. È un bene? È un male? Chi lo... Uno, nessuno, 100 Milan. Don't you tell me that it wasn't meant to be. L'amore ai tempi del coronavirus, non più baci e abbracci ma dichiarazioni. Io vi amo. Ciao, Raffaella. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo da Ferrara, faccio il contadino e non ho cambiato per niente le mie abitudini a causa del coronavirus. Io ho avuto un lutto importante, mia cugina è mancata e purtroppo non sono potuto andare al funerale. E questa è una cosa che mi ha veramente demoralizzato e mi ha colpito in maniera negativa. Anche questo è vero, l'abbiamo detto, soprattutto nelle zone rosse la gente muore e la gente non può andare al funerale, a volte è sconsigliato, a volte uno lo fa per prudenza, a volte... È terribile anche questo. Sentiamo, guarda, qua Mario, ci sono ascoltatori che ci chiamano, c'è Lorena, ci chiama da Milano. Milano, buongiorno Lorena. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Che dice lei? Allora, io so due aspetti importanti, secondo me, dalla mia persona. Uno, sono tornata a scuola. Perché mentre mia figlia fa lezioni telematiche, io ascolto le materie che mi interessano. Per cui piacevolmente mi metto lì in un angolo all'interno della classe dei professori e mi ascolto lezioni di italiano, di storia dell'arte. E meno male che sua figlia non la coinvolge, tipo aiutami mamma, che quello è il dramma, no. Perché poi perché alle medie succede, la volevo rassicurare. Ho capito, beh, io alle elementari devo dire ho risolto il problema, perché in quarta elementare tornavo a casa la sera distrutta dal lavoro e dovevo aiutarlo, quantomeno mi mettevo a aiutarla, e non andava mai bene. Allora ho cominciato a far volare quaderni, ho detto arrangiati, la scuola è fatta per imparare, poi ci saranno allora dei problemi, vedremo. Arrangiato. E così ha funzionato. Però è bella questa cosa, Mario, si mette lì Lorena, bellissimo, un po' in disparte, fa finta di niente, fa finta di fare delle cose in casa, in realtà ascolta. Qual è la materia che le piace di più aver riscoperto? Storia dell'arte. Cosa si ricorda di quello che sente in percentuale? Allora guardi, è una materia che io non avevo studiato, per cui con interesse mi metto lì, mi piace l'arte, per cui porto spesso mia figlia a mostre, a vedere musei eccetera, per cui mi metto lì, ascolto e la trovo una situazione piacevole in questa situazione di emergenza. Che bello. E l'altra cosa, ha detto due cose. L'altra cosa è quella, evito di usare i mezzi, se posso, e faccio delle camminate, che essendo io in sovrappeso, la cosa mi aiuta. Non l'avrei fatto, e invece mi trovo a camminare. Beh, devo dire che secondo alcuni studiosi, anche qui si dice che utilizzare effettivamente i mezzi aumenta, credo, di 5-6 volte la probabilità. E dipende, di diciamo così. Beh, sono usare vuoti. I mezzi, esatto. No, però sono se vuoti, fossero... ma sai, sono magari un po' più sporchi anche. Un po' sì, più... ma se fossero come quelli come le foto che abbiamo visto stamattina. Sì, sono vuoti. Grazie Lorena. Rimaniamo in provincia di Milano da Giulio. Eccoci, Giulio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Che ci dice? Volevo portare due piccole cose. Allora, uno, io ho 64 anni, ho una mamma di 95 che ha proibito a noi figli, siamo quattro figli di cui uno medico tra l'altro, di andare a trovarla. Non vuole che andiamo a trovarla, neanche il figlio medico. diciamo, è anche molto saggia. Come sta sua madre? Però, la mia mamma, diciamo che, insomma, data l'età, sta bene sostanzialmente, anche di testa, soprattutto di testa è molto a posto. Solo che appunto noi più o meno a turno, una volta alla settimana, andavamo a trovarla, una storia e l'altra, e lei invece ci tutte le sere, capito, ci telefona. Cioè, cosa fa? Se voi vi presentate non vi apre la porta, mi sembra. Non vuole che andiamo a trovarla. Ha telefonato dicendo non venite questa settimana a trovarmi. Sicuramente di testa è lucidissima, perché vuol dire che leggerà, si informerà, vedrà la TV. È lucidissima, legge, scrive, fa mille cose. No, fa mille cose, no, sì. Perché è sostanzialmente confinata in casa già da parecchi anni. Ma però questo è cambiato. Insomma, Giulio dice: lo subisco come cosa. Va bene, grazie, continuate a chiamarci. Oh, Mario, allora, Mario Calabresi è andato. Avevamo Trump, però. Ah sì, Trump, mi stai dimenticando, è vero, Trump. Perdone, lo dovete sentire. Non sono lucido quanto la mamma di Giulio, vedi, esatto. Di testa. Trump che non si tocca più la faccia, cos'è che dice? I haven't touched my face in weeks. In weeks. I miss it. Mi manca la... Non mi sono toccato la faccia da settimane. Mi manca la faccia. Poi cos'è che dice? Le percentuali sono false. Ecco, poi fin qui le battute. Poi perché il presidente degli Stati Uniti d'America deve dire le percentuali sono false? Well, I think the 3.4% is really a false number. Now, this is just my hunch. But based on a lot of conversations with a lot of people that do this. Tra l'altro basandosi su conversazioni con gente non definite, poi dice una mia, il presidente degli Stati Uniti d'America deve parlare con gli ufficiali di Stato e... Infatti devo dirti questo, ti ho chiesto Trump per un motivo, mi hai sentito spesso lamentarmi qui del governo italiano, e in questi giorni, per esempio, il pasticcio dell'altro giorno, l'avanti indietro sulle scuole chiuse, potevano sicuramente evitarselo. Però se tu paragoni il nostro governo o il briefing quotidiano della protezione civile con questa cosa con qui, queste robe qua, dici ma siamo messi benissimo. Guarda che in Inghilterra c'è Boris Johnson benissimo. Ha detto ma io stringo le mani a tutti, ma chi se ne frega, cioè capito, sono l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. Stiamo dando motivo di serietà. Sono tentato di leggerti un pezzetto del Buongiorno di Gramellini sul Corriere della Sera. Sì, dai, io lo leggo quasi sempre, oggi non l'ho fatto. Perché Gramellini dice: Milano è efficiente chiacchierona. Questa la sua indole, la sua forza, la sua croce. Non so se sia la metropoli più contagiata d'Europa, ma è certamente quella dove si sono fatti e si sono resi pubblici più controlli. Una situazione che ricorda i tempi di Tangentopoli, quando Milano passò per la capitale della corruzione, mentre s'era solo il posto in cui si cercavano e si raccontavano meglio i corrotti. Il miracolo di Milano è riuscire a essere insieme, seria e buffa, perfino nelle disgrazie. Mi si consenta la battuta, direbbe lui, ma soltanto un milanese come Berlusconi, in piena emergenza da virus, poteva trovare la voglia di lasciare una fidanzata di 34 anni per mettersi con una di 30. Perché, diciamo la verità, questa è la cosa su cui tutti riflettiamo da giorni. Berlusconi che molla la Pascale, che è nel dramma, perché dice ora Dudu è con un'altra, cioè il cagnolino. Lo io, tiene io una del che mio la Pascale cane. Si fosse portata via il cane, non che lo lasciasse a Silvio. Quindi adesso Berlusconi ha lasciato la Pascale per stare con un'altra deputata, la fascina calabrese, 30 anni. Allora, tra poco ci parli della newsletter, però dobbiamo dare la precedenza a un ospite, anche perché tra qualche minuto mi deve salutare. Mario, io ho letto questa notizia, sono sobbalzato sulla sedia qualche giorno fa, due giorni fa. Prete condannato per abusi, Don Massaferro condannato a 7 anni in Cassazione scontati, torna. Quindi lui i suoi 7 anni li ha fatti. Li ha fatti, non so se tutti, eccetera. Torna a celebrare messa. Perché? Per il diritto canonico, hanno fatto un processo separato. E per la Chiesa questa colpevolezza non c'è. Allora, io saluto Francesco Zanardi che torna con noi, presidente della rete L'Abuso. Ciao Francesco, buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. C'è qui anche Mario Calabresi che ti saluta, e Francesco si occupa da anni di mettere insieme tutti quelli che sono stati abusati negli anni da sacerdoti. Allora, la storia la conosci molto bene, ovviamente. Reazione intanto a sapere che è tornato a fare messa? Dopo aver scontato la sua pena. Ma guarda, la reazione, ti dirò la verità, questo sacerdote non è andato in carcere perché diceva male la messa, ma perché ha molestato una ragazzina. E qui purtroppo il problema diciamo non è tanto quello della messa quanto il fatto che purtroppo in Italia non esista, cioè qui parliamo di un caso dove c'è una condanna, quindi fatti accertati, e non esistono diciamo sistemi di prevenzione al fine di impedire che accadano nuovamente cose del genere. Sì. Ecco perché purtroppo si sa, lo dice la scienza medica, la pedofilia non è una malattia, è una forte devianza, una grave devianza della personalità. Mm-hmm. Il pedofilo tendenzialmente è torna a reiterare il reato. Quindi il timore è chi controlla adesso se fa messa, vuol dire che sta comunque in una parrocchia, no? Sta a contatto con anche. Con certamente, quello è scontato che stia a contatto con i bambini, o quantomeno è più scontato che chi gli impedisce di stare a contatto con i bambini, chi lo controlla? Questo è il problema. Chi lo controlla? Cioè questo è dal punto di vista, però che alternativa ci sarebbe, voglio dire, perché la pena c'è stata, sì, non è gli anni, non so se tutti o con qualche sconto li ha scontati, cosa bisognerebbe fare? Purtroppo queste persone vanno isolate dai minori, questo non lo dico io, lo dicono i medici, quindi diciamo questa persona potrebbe andare a lavorare, non lo so, a fare opere di bene tra gli anziani, insomma in posti dove è a basso rischio quantomeno. Il vescovo di Albenga si è difeso dicendo che non è parroco, ma questo diciamo mi risolve poco, ecco, anche perché in genere queste cose non avvengono durante la messa, avvengono semplicemente lasciando queste persone in giro libere e dandogli quindi opportunità di essere a contatto con i minori. Sì, è chiaro, frequenterà un oratorio, cioè entrerà in un oratorio, voglio dire. In un oratorio, tra l'altro paradossalmente nell'oratorio di Don Francesco Zappella, che qualche anno fa abbiamo fatto indagare proprio per abusi sessuali nella stessa parrocchia. E qui la cosa che un po' mi indigna e mi stupisce non poco è che i parrocchiani, dopo l'esperienza di Don Zappella, che poi si scoprì che era già addirittura pregiudicato, accettino questo sacerdote. Ecco perché qui io insomma cercherei di vederla tutta la cosa. C'è il tema della responsabilità, anche il tema della responsabilità. Scusi, ma questo, lui la condanna è per comportamenti fatti lì nella stessa parrocchia o da un'altra parte? In un'altra parrocchia, però poco lontano, okay, ad Alassio. Qui parliamo adesso di Borghetto Santo Spirito, ma diciamo la cosa non cambia. Ecco, l'avesse mandato anche in una parrocchia di Roma, purtroppo i minori no, ci sono. No, era lì, per capire, ecco, la reazione della comunità. La comunità non ha reagito assolutamente. Questo, a mio avviso, è il dato più preoccupante, perché da parte della comunità non c'è una percezione del pericolo. O del questo possibile, sì, pericolo. Io poi non voglio dire che quest'uomo. No, ma magari non farà mai nulla, e noi ce lo auguriamo, soprattutto per i giovani a contatto con lui. Però è chiaro che la preoccupazione c'è. Francesco, noi ti dobbiamo salutare, che dobbiamo andare al traffico. Francesco Zanardi, ripeto, rete L'Abuso, la trovate sul sito, andate a vedere, perché insomma tiene sotto controllo tutte le situazioni simili a queste. Spesso lo chiamiamo su queste tematiche. Ci sono le informazioni sul traffico. Poi sveliamo allora chi ha intervistato questa settimana nella newsletter calabresi. Certo, Alberto da Modena dice: voglio Calabresi in onda tutti i giorni. Adesso sei fregato, e te lo dico gentilmente, fregato. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Beh, qui in officina non è cambiato niente. Il titolare continua ad urlare, prima i dipendenti, adesso i suoi bambini che gli girano tra i piedi. Che immagine! Pensa ai dipendenti di questa officina che si ritrovano non solo il datore di lavoro, ma adesso anche i figli, che devono trattare ovviamente col massimo del rispetto, perché altrimenti il datore di lavoro si arrabbia pure. Dall'accento sembrava il meccanico di Valentino Rossi. Allora, caro MarioCalabresi.it, oggi troviamo, intanto Liliana Segre, che ti ha aperto le porte di casa. Io sono andato a intervistare, a fare una chiacchierata, a intervistare Liliana Segre, che ha parlato molto, l'abbiamo sentita tantissimo, proprio su un tema. Lei ha detto che fa troppa fatica, che non può più sopportare, che è arrivato il tempo di tacere, per cui farà ancora una cosa, sempre se ci sarà, a giugno, certo. Ma ha deciso di smettere di andare nelle scuole. Sta per compiere 90 anni, li compierà a settembre, e da 30 anni va nelle scuole e parla e racconta. E lei dice: non ce la faccio più, non ce la faccio più. Io volevo capire questo. Volevo capire, da un lato c'è in un certo senso quello che lei ha sentito come un dovere, il dovere della memoria, e dall'altra parte però c'è anche un'altra cosa che lei sente forte: il dovere o il diritto di usare quel tempo che resta per vivere, per stare con i familiari, con i parenti. Lei dice: sì, io ormai sono, soprattutto da quando è diventata senatrice a vita, tutti i giorni da qualche parte, e questo non mi lascia anche il tempo di poter stare con i miei nipoti, di poter... È interessante, perché lei per anni non ha parlato, no, poi lei, ha iniziato lei non a parlare ha parlato e adesso vuole tornare dai 15 ai 60, certo. Ha parlato dai 60 ai 90 e adesso vuole e dire oggi sente basta. La necessità, ed è incredibilmente piena di interessi. Mi ha parlato delle sue amicizie, della sua passione per il cinema, per il teatro, per i libri, e lei dice: io so di avere poco tempo. E quel poco tempo io penso di aver fatto il mio dovere, di aver testimoniato e raccontato. Però è un trauma, è in qualche modo una mattina dopo anche per lei, cioè dire, risvegliarsi e dire adesso che dopo 30 anni, dopo che non l'ho fatto per 40 anni, poi per 30 anni ho parlato, adesso non voglio, non me la sento di parlare più. Però le dà troppa sofferenza, dice: io ogni volta che riracconto quella ragazzina, il campo di concentramento, questa lunghissima marcia durata mesi, sì, della morte, con un sacco di sue amiche, compagne, che lei dice: io ormai sono nonna di quella ragazzina, e la sofferenza che c'è ogni volta a reimmedesimarmi, io non ce la faccio più a fare questo racconto. Lei si tiene molto anche fuori da queste polemiche, ma secondo te hai capito se anche tutte le polemiche, la scorta ultime, l'hanno anche un po' accelerato questa sua decisione? Questo lei non lo dice, e mi ha colpito come sia sempre è una donna forte, molto pratica, e anche questo lei dice: io nella vita non voglio neanche essere ridotta soltanto a quella ragazzina, a una testimone della Shoah, perché io sono stata una moglie, una mamma, una nonna, una piccola imprenditrice, è andata tutti i giorni in ufficio fino a 83 anni, aveva una piccola azienda di tessuti familiari, che era anche di suo padre, che però è stato ucciso subito dopo la deportazione ad Auschwitz, e era rimasto uno zio, lei ha lavorato con lo zio, poi l'ha presa in mano lei. Lei dice: io nella vita ho fatto tante cose, non sono monotematica, e rivendico anche la pluralità delle cose che ho fatto, certo. Non sono solo quella cosa, è chiaro, prigioniera, certo, di quello. È chiaro. Tu non l'hai svelato, non l'hai scritto, però me l'hai detto prima, perché io sono impazzito per i primi mesi, perché non trovavo un prodotto nei supermercati, e qua l'ho detto anche, ho scoperto, possiamo dire, diciamo, ho scoperto, sì, che quando sei andato lei è una grande appassionata di Nutella Biscuit. Nutella Biscuit, cioè, ho detto, ho sentito che tutti ne parlavano, mi ha detto: vuole un biscotto normale o vuole un Nutella Biscuit con te? E io ho detto: perché lei mangia i Nutella Biscuit? E lei mi ha detto: ma sì, ne parlava tutta Italia. A un certo punto ho detto: andiamo a cercare sti Nutella Biscuit, e li ha trovati, gli sono piaciuti, è incredibile che li ha trovati. Vabbè, adesso ci sono, ma inizialmente non c'erano, e poi invece nella newsletter trovate anche una bellissima intervista al fotografo dei talebani, cioè un italiano che in questo momento è in Afghanistan. Tra l'altro avete letto che l'America e i talebani hanno fatto la pace per questo, perché hanno fatto questo accordo di pace, talebani e Trump e talebani, e volevo capire com'è oggi il clima. E allora ho trovato questo fotografo italiano che è candidato al World Press Photo e è una cosa eccezionale, lo scorso anno ha vinto il premio Pulitzer. Il premio Pulitzer lo vincono solo gli americani sostanzialmente, certo. Che un italiano lo vinca, lui l'ha vinto perché lavora per il Washington Post ed è, lui ha 40 anni, si chiama Lorenzo Tugnoli, è di Lugo di Romagna, l'ho chiamato al telefono, si è stati un'ora con WhatsApp al telefono, lui era a Kabul e c'ha un accento come il nostro meccanico, sì, come il nostro meccanico di Valentino Rossi. E lui è candidato adesso a questo premio per questo servizio perché i talebani all'inizio di dicembre, per darsi un po' un'immagine ripulita durante le trattative, hanno accettato che un fotografo passasse una giornata con loro e l'hanno portato tra le montagne insieme a loro. E lui mi ha raccontato questa com'è il clima oggi in Afghanistan. Lui è andato lì a vivere quando aveva 30 anni. E ha detto, io ho capito che quello era un posto dove c'era tanto lavoro, come fotografo, e quindi è andato a vivere. Comunque, mariocalabresi.it, ma se uno si iscrive oggi riceve la newsletter anche di oggi? No, però dal sito, dal sito vedete tutte le storie, riceve la prossima, ma sul sito vedete queste storie e anche quelle di prima. Vediamo se c'è Franco da Pisa, prima di salutarti a prima ora. Franco da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Senta, io ho chiamato perché ascoltando le trasmissioni, ascoltando di coronavirus, volevo parlare della crisi. Il suo ospite ha detto che hanno annullato le presentazioni del libro. Sì. Nessuno parla in Italia, sia il governo sia le televisioni, della crisi. Io opero nel settore allestimenti e forniture di beni e servizi. Se ne parla, cioè, anche solo il Vinitaly, il Salone del Mobile, è tutto un disastro. Però le aziende che lavorano in questo settore sono veramente in difficoltà. Lo so. Io penso non alle aziende strutturate come può essere la mia, ma aziende che lavorano nella manodopera, che sono piccoli artigiani con 2-3 dipendenti, certo, che non hanno gli ammortizzatori sociali. Ecco, vorrei che... Lei fa bene a dirlo, ma in realtà se ne parla Focus Economia con Sebastiano Barisoni, ne parla, cioè è chiaro che ci sono migliaia di settori economici che sono letteralmente in ginocchio, al collasso, perché dove soprattutto le piccole aziende, noi siamo il paese delle piccole e medie aziende, anche piccolissime aziende senza ammortizzatori sociali, con contratti magari gente non strutturata, con contratti ma anche a tempo indeterminato. I lavoratori, ma anche gli imprenditori, certo, tutti quelli che si trovano falliranno adesso. È vero, è terribile. Mario Calabresi, allora, Alberto da Modena ti chiede qui tutti i giorni, non so... Organizzati, se mi dai il caffè tutti i giorni. Vabbè, sai, il caffè, guarda, è il mio. Vabbè, tanto vieni quando vuoi. Ah, ecco, dalla redazione mi stanno facendo vedere che hanno comprato due scatole di capsule. Quindi mi toccherà ritornare presto. Presto, già dice presto. Mi chiedono, ma viene oggi Manerone, Vestaglione, Pelandrone? È ma già come lì, no? Con cappello in testa e occhiali pronto ad entrare. Nella seconda ora. Ciao Mario, alla prossima. Intanto. Ciao a tutti. Uno, nessuno, 100 Milan. Gabriella da Roma, e trovo giustissimo quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Visitare l'Italia. Conosco gente che ha visto Barcellona 3 volte e non ha mai visto Firenze, o non è mai andata sul lago di Garda. Per cui visitare l'Italia. Manera, occhio che Milan ti fa le corna! Ma sappi che io sono come la suocera, sono innamorato sempre del primo marito di mia moglie. Poi sul lago di Garda, cosa ci sarà mai sul lago di Salò. Garda? Lago. Ah, una delle cittadine Salò. Più belle che si possono incontrare. Buongiorno, caro Manera. Allora, io faccio notare che oggi avrei tranquillamente potuto rimanere a casa, come anche ha suggerito il presidente Mattarella. Invece io, siccome sono un lavoratore indefesso, diciamo uno stacanovista, Stacanova, ho voluto comunque essere presente perché so che mi stanno sostituendo con altre persone e allora sono venuto a dare gli ultimi saluti prima di sparire per sempre da questa radio, questi microfoni, e tornerò a barricarmi in casa mia anche quando saranno finiti gli anni del coronavirus. Gli anni? Gli anni, durerà un paio d'anni. Ma come un paio d'anni? Ma minimo. Non è vero, cari ascoltatori. Allegria. Amici ascoltatori, allegria. Finirà un paio di mesi, dai, poi finirà. Dipende. Ma oggi viene, ci chiedeva questo ascoltatore alle 9:20, non tossire, oppure tossisci nel gomito, come segui l'OMS. Buongiorno, ma oggi viene Manerone, Vestaglione, Pelandrone, eccolo qua. Tra l'altro dicono di tossire nel gomito, ma ho visto che molti si salutano dandosi il gomito anche, hai visto? Quindi prima uno starnutisce nel gomito, poi saluta col gomito, poi col gomito si tocca la fronte. Ma i gomiti saranno infettatissimi. Sì, i gomiti. Ed è fatta. È fatta. Va bene, va bene. Allora, ti vedo molto preoccupato allora. No, no, preoccupato no. No. Sono così, realista diciamo. Realista, ecco. Amaramente realista. Amaramente realista. Come ci vuoi accogliere in questa seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan? Con una base allegra ma un pezzo semi amaro come sempre. Come al solito. Allora, ieri tra l'altro mi hanno fatto notare, mi hanno detto, ma dovresti fare dei pezzi meno amari. Meno amari, e non, per quello ci attrezziamo per una nuova vita. Allora, fino al coronavirus in Italia ormai andavano di moda le semplificazioni. Le cose o erano bianche o erano nere. Il grigio era passato di moda. O si era buonisti radical chic che facevano l'accoglienza con le spiagge degli altri, oppure si era populisti sovranisti incapaci del benché minimo sentimento di accoglienza verso i più deboli. Insomma, era sparito il grigio. Il grigio che per anni, sia come tipo di dichiarazioni che come tipo di abbigliamento, aveva caratterizzato gran parte della politica della Prima Repubblica, ormai si andava estinguendo. Ricorderete i politici della vecchia Democrazia Cristiana, sempre in grisaglia, dichiarazioni che non sarebbero riuscite ad eccitare nemmeno il più accanito fan di Madama, inteso come Palazzo Madama. Andreotti, Fanfani, Cariglia. Quello che sembrava forse più adatto alla vita spericolata era Renato Altissimo, per un periodo segretario del Partito Liberale, il quale, sempre abbronzato, lasciava intravedere dietro la grisaglia almeno qualche seduta in un centro benessere con raggi uva. Poi c'era De Michelis, dal quale si favoleggiavano mitiche serate in discoteca, ma probabilmente era una leggenda messa in giro per dar l'idea di una politica più divertente che faceva a botte con il viso severo, per esempio, di Martinazzoli. E poi dichiarazioni sempre misurate, con 100 sfumature di grigio, ma pur sempre sfumature e pur sempre di grigio. Berlusconi, che si dice conosca l'animo umano, aveva fatto sognare gli italiani, prima promettendo posti di lavoro, ma poi, in modo assai più efficace, con barzellette quasi sempre a sfondo sessuale che davano a tutti l'impressione di vivere nell'Eldorado testosteronico. Ma tutto sommato di risse se ne vedevano pochi, il linguaggio non era ancora così sdoganato come oggi e c'erano giornalisti che non erano parte attiva nei partiti, c'erano ancora partiti dal nome Gentile, la Margherita. Vi ricordate quando c'era la Margherita, coi toni pacati di Rutelli? Tutte cose che sembrano lontane un secolo, visto che poi i toni si sono alzati e la rabbia e l'insulto sono diventati il minimo comune denominatore di tutti i dibattiti, insieme a una inevitabile semplificazione. Semplificazione, discorsi facili e immediatamente comprensibili erano gli unici tipi di comunicazione possibile. Poi è arrivato il coronavirus. E all'inizio anche lì abbiamo avuto la tentazione di semplificare, ma poi abbiamo capito che un minimo di ragionamento era necessario. Era necessario tornare almeno un po' al grigio, cioè alle cose non così, diciamo, o bianche o nere. Al ragionamento, magari non di effetto, ma dove si cerca di spiegare. Insomma, bisognava spiegare che non tutti morivano per il coronavirus, ma solo qualcuno. Però se si fossero ammalati tutti contemporaneamente, non ci sarebbero stati abbastanza posti in terapia intensiva. Ecco, pensate se questo ragionamento, con anche all'interno un congiuntivo, fosse stato proposto solo 2 mesi fa. Si sarebbe stati accusati di essere buonisti o radical chic, visto che dentro appunto c'era anche un congiuntivo. Invece oggi lo si può quasi dire senza paura di essere insultati. E il coronavirus ha fatto tornare di gran moda il grigio e la necessità di puntualizzare, di distinguere, anche se in questo caso è un grigio acceso, visto che riguarda la salute. Ma sempre grigio è. Ma non preoccupiamoci troppo, torneranno di moda quando finirà l'epidemia le solite risse di bianco o di nero, il ragionamento grigio, qualche volta perfino con congiuntivo, tornerà inevitabilmente in soffitta. Eccoci qui, eccoci qui. E tossisce. E niente. Vabbè. Scusate, poi cambia la spugna del microfono. Sì, lunedì. Lunedì cambiano la spugna del microfono, quindi però chi se ne frega, tanto noi poi usciamo, non rientriamo più nello studio fino a lunedì e quindi siamo a posto. Questo per la solidarietà nei confronti dei colleghi. Va bene, bravo Manerone, la grisaglia effettivamente era i tempi della grisaglia, i gran bei tempi. Erano tutti in grigio, sì sì. In grigio, che però era un grigio che ti metteva così, tranquillità, ottima, sì. Tranquillità grigia. Mm-hmm. Io guardavo, mio padre guardava le tribune elettorali. Sì. Così, si metteva lì in silenzio, guardavo, anch'io in silenzio, ogni tanto mi diceva tieni un cacciavite. È vero, quando ti faceva fare i lavori, ma tu grazie a questo hai fatto un apprendistato così casalingo e adesso sai cambiare, che ne so, sottaccare le mensole, adesso mettere i tasselli, usare il trapano, cambiare le viti, cambiare le punte. Cambiare, cioè, ho capito, cambiare la punta al trapano, ma poi lo sai usare il trapano? Sì, anche, me l'ha regalato mio padre. È una delle cose che mi ha regalato, mi ha detto tieni questo trapano. Tu di gioco cambi le punte al trapano, ma poi dopo va attaccato, se è con la spina e va usato. Lo uso, anzi se volete vengo dico a casa vostra. Dico io che non so fare niente, quindi se volete, sai appendere un quadro dritto, una mensola con la bolla? Guarda, ho attaccato a casa mia un'intera scaffalatura con tantissime mensole, quindi sono abbastanza ferrato nel genere. Cosa vuol dire attaccato? Cioè, ho fatto tutti i buchi, montato. Ho messo i tasselli in bolla, ho messo i montanti, quindi da questo punto di vista. Questo è ottimo, ottimo. Sì. Cioè, io non saprei neanche da che parte iniziare, per esempio, quindi, quindi bravo, bravo. Manera è il mio amarone preferito, Rita scrive questo. Brava Mama. Rita, vieni qui, fatti conoscere. Va bene, dai, intanto andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. 10 e 16 minuti. Tra l'altro, caro Leonardo, abbiamo chiesto agli ascoltatori come, se avete cambiato la vostra vita quotidiana, come l'avete cambiata nei gesti di tutti i giorni. Tu, per esempio, vai al Bar Jimmy. Abbiamo scoperto che il Bar Jimmy si è quasi svuotato. Sì, perché non si può servire al tavolo, se ho capito bene. Ci sono due tavoli al Bar Jimmy, ma sono talmente ristretti che è scomodo. Quindi due clienti possono entrare alla volta. Pensa se uno sta lì, legge il giornale, sta mezz'ora e poi dice un caffè, grazie. No? E chiaramente il Bar Jimmy, no, rido, ma mi dispiace. Ha avuto un tracollo. I comici, per esempio, stanno facendo le dirette Facebook, vanno in giro, si trovano, fanno delle dirette. Ma questa cosa è, cioè, nel senso, invece degli spettacoli? Perché non veniamo comunque pagati. Quindi è una cosa che facciamo per ricordare che comunque si esiste. Stasera, se andate sulla pagina di Stefano Chiodaroli, che è un comico mio amico, faremo una diretta Facebook a cena con altre persone. Un po' così di cazzeggio. Una specie di spettacolo su Facebook, una cena spettacolo su Facebook. Cena spettacolo sulla pagina di Stefano Chiodaroli. A che ora? Vabbè, di stasera. Ragazzi, in che teatro? No, vabbè, ma in che teatro? Lo so, vabbè, ho capito. A che ora però si devono collegare? Ma ci troveremo verso le 8, quindi fai 8 e mezza, via. Va bene. Allora, signori, ora dobbiamo parlare, verrebbe da dire dobbiamo parlare di Topolino, ma nel senso non è che parliamo proprio di Topolino, però l'edizione di Topolino legata all'8 marzo è dedicata anche alle donne, ovviamente, e alle donne nello specifico che si occupano di ricerca. Voglio saluto Luisa Torsi, che è professoressa di chimica all'Università di Bari. Buongiorno, professoressa Torsi, eccoci. Buongiorno, qui. Buongiorno. È finita su Topolino, intanto. e questo è un onore, perché non è mica. Assolutamente, ma vuole scherzare, sono diventata amica di Paperina, cosa voglio di più? Assolutamente. Nella storia Paperina e la selezione scientifica, esatto. si racconta con la professoressa Torsi, la professoressa Caputo, che è ordinaria, sì, al Politecnico, sì, di Torino, che, sì, diventano personaggi di questa storia. Per sensibilizzare in che modo, secondo lei, professoressa? Sì. Allora, intanto mi preme ricordare che questa è un'iniziativa di Fondazione Bracco, e la vulcanica Diana Bracco e tutto il suo team stanno mettendo in campo una serie di iniziative estremamente importanti per supportare il ruolo delle donne in vari ambiti della società civile, puntando soprattutto alle posizioni apicali e anche anche in ambito scientifico. Quindi l'idea è che è indispensabile raggiungere le donne quando sono ancora bambine per convogliare un messaggio molto importante: la scienza e le tecnologie sono alla vostra portata, perché in questo modo le si stimola a scegliere queste discipline che invece tipicamente sono scelte soprattutto maschili, dai ragazzi. Maschili, esatto. Attualmente c'è un 30% di donne che si iscrive in tutta Europa alle corsi di laurea. Ma perché infatti, guardi, rubo una dichiarazione di Barbara Caputo, la sua collega che è finita su Topolino, sì, che diceva: insomma, lei fa informatica, l'idea qual è? Ecco, tutti pensano che se uno fa informatica è un nerd o una nerd che ha gli occhialoni, che è ripiegata su se stessa, sempre sul computer, non ha una vita sociale, non ha una vita. Ecco, anche fare la docente di chimica non vuol dire non avere, come dire, non essere donna. No, poi tra l'altro, allora, gli occhialoni ce li ho. È Louise Tordac, la mia alter ego. Sì, Louise Tordac, certo, c'ha dei bellissimi occhialoni enormi, per cui diciamo quello fa parte del personaggio e va benissimo così. Al di là, diciamo, di questi stereotipi giocosi, ci sono degli stereotipi molto più seri che ancora una volta sono l'idea che ci siano delle cose che non sono adatte alle bambine. Niente di più falso. Con questi stereotipi stiamo perdendo i talenti da tempo immemore delle donne, e questo è qualcosa che la nostra società non può permettersi, perché alla fine della fiera impatta anche economicamente, perché non sfruttiamo le risorse umane nella maniera in cui dovremmo, e bisogna porre rimedio a questa situazione al più presto. Però questi stereotipi dipendono in qualche modo anche dalle scelte che hanno fatto le donne in sede magari universitaria, cioè quando decidere che facoltà scegliere. Assolutamente, ma infatti è su questo che vogliamo incidere. Mm-hmm. E per incidere su questo bisogna raggiungere le bambine, non le maturande, perché le maturande hanno già sedimentato una scelta, magari diciamo sulla base di stereotipi non percepiti come tali, perché ovviamente parliamo di percezioni che non vengono gestite a livello razionale, perché altrimenti non ci sarebbero, e quindi bisogna incidere sulle bambine e convincerle che se hanno voglia di fare di studiare chimica o di studiare informatica, lo devono fare, lo possono fare alla loro portata, e non c'è niente e nessuno che può impedire loro di realizzare il loro potenziale più elevato. Voglio dire anche questo, mi corregga se sbaglio, ma insomma mi hanno detto nel 2010 lei è stata la prima italiana, nonché la prima donna, a vincere il premio Henrik Emanuel Merck per le scienze. Sono stato il primo italiano analitico in assoluto. Sì, primo italiano in assoluto e anche prima donna. Quindi. Assolutamente. Dal 2015 lei preside la European Material Research Society e è la prima donna a rivestire questo ruolo. E insomma, quindi... non a caso finisce, ecco, certo, è finita, come dice la sua collega, col becco su Topolino. È bellissima, sì, no, ma infatti questa è ovviamente un onore pazzesco. Faccio vedere a maniera, lei è quella con i capelli scuri, mentre io la collega è quella con i capelli biondi. Scuri e gli occhi, allora, sì. Perché lei, sì, appunto. Sì, certo. Ovviamente io sono estremamente onorata di essere Louise Tordac, perché diciamo è molto più difficile finire su Topolino che pubblicare su Nature. Infatti è vero, guarda che su Topolino è una rarità, cioè è più difficile finire su Topolino. A me è capitato alcuni anni fa e fu una grande soddisfazione. Cioè, come ti hanno chiamato? No, non in un episodio, ma in tutto un servizio quando c'erano gli europei di calcio, quando facevo il cinema polacco, era tutto legato alla Polonia, nazionale polacca, e così, ed è sempre una soddisfazione perché ti dà l'impressione di aver raggiunto un pubblico che altrimenti non avresti raggiunto mai. No? Assolutamente. Ma in questa storia topolinesca, sì, che cosa, esatto, dice Luisa Torsi esattamente? Quali sono i miei... Allora, io, la storia è questa, io e Barbara Caputo, quindi Louise Tordac e Barb Quack, siamo invitate da Topolina dato da Paperina a presenziare, a fare una relazione al, nel club, al club delle, delle sue amiche. Mm-hmm. E le amiche appena ci vedono dicono: ma chi sono queste? Queste sono un po' strane, sono vestite con questi camici, ma sono veramente poco eleganti. E quindi diciamo non comincia nel migliore dei modi la nostra relazione, ma naturalmente poi noi conquistiamo tutte e addirittura conquistiamo anche Paperoga e Archimede, che sono incuriosite, sono incuriositi da queste scienziate della famosa Quack Foundation, che ricalca la fondazione Bracco. E come dice appunto Diana Bracco in un'intervista, lei è molto divertita da questa cosa e ovviamente lo siamo anche noi. E quindi poi tutto finisce benissimo. Tutto finisce bene, giusto. Si premia la nostra diciamo relazione alla scientifica, alla, alla popolazione, a Paperopoli. E la scienza vince, e la scienza vince, e questo è il finale. Senta, le chiedo un'ultima cosa, Luisa Torsi, rispetto a quello che sta succedendo, le vicende, il coronavirus. Virus, ha letto anche lei, sia prima le ricercatrici dello Spallanzani, poi le ricercatrici del Sacco di Milano, qualcuno le ha definite le ragazze del Sacco, no? Hanno, quando lei legge un titolo del genere, cos'è, lo trova sprezzante, lo trova diminutivo? No, perché? I ragazzi di via Panisterna, credo che si sentissero, diciamo... No, va bene. Ci sono chiaramente ci sono sempre più donne che sono impegnate in tantissimi progetti importanti, anche scientifici. Il punto è che sono spesso donne in posizioni non apicali, là dove veramente mancano le donne. E sono le presenti, sono alle posizioni, e quello è molto importante per due ordini di motivi. Uno, per una questione di role modeling. Se io vedo, se io ragazza vedo una donna in posizione apicale, penso che quella posizione ci potrò arrivare anch'io. E in secondo luogo, perché se è vero, come io penso sia vero, che in media noi donne abbiamo un approccio diverso ai problemi, ecco, questa sensibilità diversa, questa maniera diversa di vedere le cose non si esplica perché non abbiamo la possibilità di diciamo essere rappresentate in diciamo c'è la possibilità di avere, sì, di avere l'approccio maschile e l'approccio femminile. Secondo lei noi quindi stiamo perdendo dei talenti, questo è il messaggio. Invece stiamo perdendo i talenti delle donne. Secondo lei a noi poveri uomini cosa rimane, cioè qual è il nostro specifico cui potremmo dedicarci senza esserci ancora dedicati completamente? Ma ci sono tante cose, per esempio siamo carenti in la tutto. Cura, questo non è assolutamente vero. Anche a me dà molto fastidio quando si dice le donne sono superiori, non è vero assolutamente, noi siamo come gli uomini e basta, è sul livello di parità che sì, però diceva la cura. Ecco, io per esempio ho accolto con grandissimo favore la nuova legge secondo la quale è diventato obbligatorio un mese di attenzione dal lavoro per i papà. Questo è un primo passo, ancora piccolo perché un mese poco, ma estremamente importante, che cambierà. Quindi la cura veramente dei figli, lei dice, assolutamente, la cura dei figli, la cura dei genitori anziani, diciamo. Io quando vedo i papà con giovani con i passeggini da soli in giro sono proprio emozionata, perché credo che sia un'esperienza meravigliosa dalla quale per qualche motivo, mediamente, ovviamente qua io parlo sempre in media perché poi ci sono ovviamente eccezioni, però ecco, in media è così, la cura dei bambini è per lo più sulle spalle delle mamme. No, deve essere equidistribuito il carico, e questo ci cambierà molto e secondo me ci cambierà in meglio. Allora, nel salutarla e ringraziare la professoressa Torsi, visto che è chimica, da giorni la gente ci dice: guardate che basta che vi laviate le mani con l'aceto per la questione coronavirus. Ci può aiutare lei che è chimica? No, l'aceto non serve a niente. Per carità, mettetelo nell'insalata. Assolutamente, seguite in maniera scrupolosissima le indicazioni dell'autorità della Cosa Mondiale della Sanità. Benissimo. Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie davvero a Luisa Torsi, la ritrovate su Topolino, effettivamente con Barbara Caputo, nelle vesti di Luis Torda. Comunque sai che è vero che Torda, per le donne vedere un uomo che va in giro col passeggino fa sempre effetto. Sì, anch'io lo faccio tutto il resto, il passeggino è vuoto, metto una copertina sopra, però vado al parco. Cioè, quindi c'è quelli che rimorchiano col cane. Sì, io vado col passeggino vuoto. Col passeggino. Sì, una coperta sopra, dico sta dormendo e mi dico piccolino, quanto tempo è appena nato, 2 mesi. Ho capito, oh, ma che poi dolce. Ti scoprono. Ma no, tengo la coperta fino a... cosa fai? Lo metti mummificato il bambino. Non lo so. Qualcuno dirà, ma faccia respirare questo bel bambino. No, è raffreddato, deve stare al caldo. E lo faccio sempre, in piazza Udine, lì al parco Marisa Belisario, vado col passeggino. Ha segnalato alla questura di Milano che c'è uno che si aggira con un passeggino un po' disturbato nelle zone di piazza Udine. Mi è arrivato via WhatsApp dalla questura di Milano, insomma, il nuovo maniaco. Quindi, seriale. Uomini che vi sentite anche soli, sappiate che andare in giro con un passeggino vuoto può farvi forse incontrare l'anima gemella. Va bene, e se non avete il passeggino per incontrare l'anima gemella? L'Elisil del dottor Meazza. Ovvio. Basta berne un buon sorso. Ogni problema c'è, oggi non c'è. Oggi non c'è. Meazza. In giro l'ho visto sotto che sta vendendo in un banchetto il suo Elisir. Eccolo. Anche oggi le borse vanno male, sì. Hai visto? Malissimo, un tracollo. No, non è vero, adesso sentiremo, credo, da Deborah Rosciani come vanno. Bisognava vendere prima di restare col cerino in mano, ma ormai. Non seguite i consigli né del dottor Meazza come Elisir, né del dottor Bonetti. Ormai il cerino vi è rimasto in mano. Niente, va bene, non ce la faremo. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma se io non voglio andare a visitare il lago di Garda, che problema c'è? It's your life, don't you let them tell you one about your eyes. You're the only one's gonna sacrifice. Make no difference if you're right or wrong. Milan, ma come ti permetti a insinuare cosa ci sarà mai sul lago di Garda? Cioè, chissà perché vengono da tutta Europa e fanno le ferie anche di un mese sul lago di Garda, cosa ci sarà mai sul lago di Garda? C'è la Franciacorta, c'è Salò, c'è Riva, c'è... ci sono di quei posti magnifici, ci sono le terme, ma stai scherzando? È triste dover spiegare, guarda, è triste. Giulia, bravo, Cisello, condivido quello che dice l'ascoltatore. È triste dover spiegare l'ironia, ma era un modo per accogliere Leonardo Manera che è di Salò. Mamma mia, devo spiegare tutto, aspetta che do testate al microfono, mamma mia. Il lago di Garda è uno dei posti più belli, è patrimonio dell'umanità. L'ascoltatore Salò, Garniano, che si offende, Limone, cioè, Desenzano, Balcesine, Riva, Arco. L'ho fatto solo per prendere Torri in giro Manera Benaco. E l'ascoltatore che si offende. Ha ragione, lago di Garda. Sei stato offensivo verso tutti i gardesani lacustri. Ma smettila, io volevo offendere solo te. I gardesani, non ho niente contro i gardesani, ma te invece volevo offenderti un po', volevo prenderti in giro, dai, volevo pungolarti come degli stuzzicadenti. Io da bambino abitavo proprio sul lungo lago di Salò, davanti al lago e di fronte al cimitero. C'è il golfo di Salò. C'è il golfo. Da cui l'amarezza, non per il lungo lago, non per il lungo lago. Chi conosce Salò sa che Salò c'è un golfo a Salò e c'è il lungo lago. Allora, e proprio di fronte c'è il cimitero. Io l'ho fatto solo per pungolarti, peraltro. Mentre Miriam Lucchetti ti vuol far sapere e vuol far sapere a tutti i gardesani che è molto meglio il lago di Como. Cioè proprio non c'è confronto. Voi siete degli straccioni, ha detto questa parola se non sbaglio dal labiale, straccioni gardesani. Il lago di Como è molto meglio. Mica quei figli del demonio, ha detto anche se non sbaglio. Allora, il lago di Como che pure ha delle bellezze naturali, però in verità è molto più chiuso dal lago di Garda, quindi dà anche una sensazione un po' claustrofobica. Il lago di Garda in certi punti ti permette anche di non vedere l'altra sponda, quindi sembra di essere al mare. Giustamente, giustamente uno ha detto, io mi offendo per Cinisello Balsamo, perché alla fine dell'ascoltatore ha detto, ma rimani lì a Cinisello Balsamo. A parte che mi offendo pure io perché sono di Sesto San Giovanni e non di Cinisello Balsamo. Comunque Ah, ha detto anche Sesto San Giovanni, ma come si deve vergognare? Sesto San Giovanni è una ridente località, come Manera ben conosce. Non lo so, lo tiriamo dentro in questa diatriba, quindi non gliene fregherà nulla di questa diatriba, ma il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, buongiorno. Il lago di Garda ha una parte in Trentino. buongiorno. Lei preferisce il lago di Garda o il lago di Como? Stia attento. Lei mi fa una domanda... banale. Però. Banale, noi abbiamo una bellissima zona sul lago di Garda. Quindi. Tra l'altro inibita ai motoscafi, la parte del Trentino che fa parte, c'è il lago di Garda, è inibita ai motoscafi, posso andare solo le barche a vela. Bello, nel senso che è una zona particolarmente pulita dal punto di vista... È una zona vocata per questo proprio, quindi... Certo. Vabbè, il presidente della provincia di Trento ha scelto, insomma, lago di Garda, sì. Va bene. Presidente, allora noi l'abbiamo chiamata perché si è risvegliato l'orso. L'orso fa l'orso, è andato in letargo, M49, si è risvegliato e ora è molto affamato. È affamato di miele, è affamato di animali, di prede. E lei ci ha tenuto a far sapere che l'ordinanza dell'anno scorso è ancora in vigore, quella in cui si potrebbe anche abbatterlo. Il problema non è che l'orso sia svegliato, perché diciamo è normale che l'orso si svegli in questo periodo. Eventualmente di strano c'è che l'orso sia svegliato un po' presto, rispetto al solito, ma vabbè, è questo, diciamo, è un fenomeno naturale. Il problema è che l'orso da questi primi giorni sta manifestando un atteggiamento di confidenza verso le zone, chiamiamole abitate, ma realmente, che è fuori dagli schemi di comportamento di un orso normale, perché un orso che ti cammina in mezzo al paese durante la mattina, questa immagine è meravigliosa, io me lo vedo già. Lei non rida perché lei probabilmente lì non ci vede. No, okay? Ma lo so, ma nel senso me lo vedo già in salotto che guarda la TV, scusi. Esatto, nel senso, i bambini che vogliono uscire di casa e si trovano l'orso, magari. Ma veramente c'è l'orso che cammina in mezzo al paese, davvero? Vabbè. Così è, se vuole le mandiamo le foto. Quindi, il problema è questo eccesso di confidenza con le realtà, chiamiamole abitate, sì. Conseguentemente di fronte a dei casi che comunque sono rischiosi, ma che adesso vanno monitorati perché appunto l'orso si è appena svegliato. L'ordinanza firmata nei mesi scorsi è ancora valida. Le autorità della forestale trentina ora stanno facendo tutte le i controlli, le azioni e le verifiche. È chiaro che se lo si potrà catturare nel breve termine di tempo, lo cattureremo. Ma voi vi ricordate l'estate scorsa, cari ascoltatori, cioè l'orso M49, tutto il dibattito, poi una volta fu preso, poi fuggì, non si è mai capito, è fuggito. Non è che non si sia capito, è fuggito. Adesso, ma si è capito adesso dov'è? Cioè è stato riavvistato dove esattamente? Sì, è stato riavvistato in una zona del lago Rai, diciamo, del Trentino, in una valle del Trentino, e se lui rimane tranquillamente nelle zone di montagna, rimanesse tranquillamente nelle zone di montagna come la stragrande maggioranza degli orsi, questo non sarebbe un problema. Quando un orso si avvicina alle case abitate, alle zone abitate, questo diventa un comportamento fuori dagli schemi per un orso normale. E quindi a quel punto lì si entrano in campo le tematiche di sicurezza pubblica. Certo. Io come presidente della provincia devo garantire. Però a questo punto diventa anche più facile monitorarlo ed eventualmente catturarlo. La volontà è di monitorarlo e di catturarlo per metterlo, diciamo, in tranquillità. Ma poi in tranquillità, perché una volta che viene catturato, visto che lei ci sta spiegando che non può stare in cattività perché è troppo socievole, cosa si può fare? O uno lo uccide o lo tiene sempre? La volontà nostra è di catturarlo e di metterlo all'interno di una zona, questa volta che sarà sicuramente non... perché se torniamo al periodo scorso, quel posto dove noi l'avevamo messo, il Ministero dell'Ambiente, che ha, diciamo, la, il controllo su tutte le questioni che riguardano le specie importanti come quella dell'orso, ci aveva detto che quello era il posto più sicuro d'Italia, sicuramente, se non d'Europa, e invece è fuggito, dove uno, e invece questo orso fuggì. Adesso questo posto lo abbiamo ulteriormente, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, e, diciamo, lo abbiamo ulteriormente rafforzato, e riteniamo che debba stare in questo posto. Vedremo. Presidente, mi dica in conclusione, un ascoltatore dice: caro Presidente, in Alaska ci sono alci, orsi, camminano nelle città, nessuno li uccide, nessuno li abbatte, nessuno... cosa risponde a questo ascoltatore? Io devo rispondere alla gente che vive nelle nostre zone di montagna, che probabilmente quel radioascoltatore lì, non so se vorrà avere un proprio figlio che gira per le strade a trovarsi un orso davanti, non credo. In Alaska come fanno? Che vada in Alaska allora il tuo radioascoltatore a vivere, che non c'è nessun problema. Noi non siamo in Alaska, siamo in Trentino, vogliamo dare la garanzia alle nostre famiglie di poter vivere serenamente. Tranquillamente, va bene. Presidente, ci sentiamo, tanto sarà un'altra estate in cui l'orso ogni tanto compare, arriva di qua, arriva di là, ci sarà il dibattito, vedrà. Intanto noi la ringraziamo, Presidente Maurizio Fugatti, Presidente della Lega, non l'ho detto prima, della provincia di Trento. Bisogna metterlo in isolamento come quelli con il coronavirus. Barrichiamo l'orso, cioè, ma hanno provato l'altra volta, è fuggito. Si sente solo, pensa che dramma. Vuole venire nel salotto di casa. È un dramma secondo me per questo orso, perché non si trova bene con i suoi simili orsi, ma gli uomini con cui si troverebbe anche bene non lo vogliono, e quindi è destinato a una vita in solitudine. È un po' un orso maniera, che dove lo metti si trova un po' a disagio e vuole cercare un altro posto. I suoi simili non lo vogliono e gli altri ugualmente non lo vogliono. Veramente, questa è amara veramente come situazione. L'orso potremmo fare l'amaro M49 in onore dell'orso. È molto amareggiato questo orso, effettivamente. Vuole stare a contatto con gli umani, ma che possiamo fare? Io un po' avrei paura comunque. Beh, anch'io, moltissimo. Dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ecco, abbiamo già il marchio, grazie all'ascoltatore, il Lamaro Manera 49, M49. Tra l'altro, Leonardo, l'ultima volta ho detto, quando viene qua potremmo fare la misurazione proprio lunedì, se vieni, facciamo la misurazione del manerometro, cioè ti stendi qua sul tavolo, ti misuriamo, vediamo se davvero sei 1,82 con le scarpe, e poi ti utilizziamo negli spazi pubblici come... Lunedì non ci sono comunque. Martedì facciamo. Vediamo. Vabbè, è venuto. C'è un WhatsApp? Sentiamolo. Dan, sono quello del messaggio del lago di Garda. E perché non l'hai ascoltato fino in fondo? Sì. Ma io sono del lago di Lecco. Quindi sul lago di Como, o meglio, dalla parte di Lecco. È molto, ma molto più bella che la parte del di Como. Il ramo del lago di perché Como. Perché Lecco, certo, è una perla. Con Varenna, Bellagio, mentre Como è un po' chiuso come golfo. Sì, effettivamente. Qui c'è anche la disfida nel lago di Como tra il ramo di Lecco e il ramo di Como. Lui sta in quel ramo del lago di Como. Sì. Allora, di Lecco. Sì. Allora, però è venuto a trovarci il nostro mitico Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, il nostro cuoco migliore. Mamma mia, che volgarità queste disfide sulla bellezza di un luogo geografico oppure dell'altro, veramente noioso e provinciale. Perché? Invece Pannocchio di Castelbiondo ma com'è? Ma Pannocchio non c'è neanche bisogno di descriverlo, è un luogo ameno, dove si può dare corpo alle proprie caratteristiche più intrinseche ed emozionali. Addirittura. Allora, c'è un lago a Pannocchio. Il lago. Andiamo al lago. Andiamo a fare un infuso emozionale personale. Andiamo a fare un bagno al lago. No, il puccio del lago. Infuso emozionale personale. Il puccio. Le parole sono importanti. Sì, va bene. Allora, voi lo sapete, sono Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale. Sì. Però qualcuno mi chiama preludio, qualcuno mi chiama anche sintesi. Buongiorno Sintesi. Ogni sera apro le porte della mia dimora culinaria, il desco di Nice a Pannocchio di Castelbiondo, e mi diletto a sollazzare il palato dei miei avventori con le mie creazioni contenute nel mio libro, che si intitola Dio c'è, con sotto una mia fotografia. Un libro, Dio c'è. È un grande successo editoriale, purtroppo però ha dei risvolti negativi. Ad esempio, cioè? Quando qualcuno mi chiede scusi, mi fa una dedica. Beh, perfetto, ottimo. Che mediocrità, la dedica. Vabbè, la dedica. Allora, dell'autore. Mi tocca spiegare che il mio non è un ristorante, ma un viaggio gastronautico per nutrire lo spirito. E non posso nutrire lo spirito se ho una mano occupata, sì, a scrivere la dedica a Gabriella con tanta simpatia. Vabbè, ma dai. Allora, i nostri avventori partono dal cibo, se così vogliamo chiamarlo, sì, e alla fine della serata non sono più gli stessi. Perlustrano la loro coscienza in cerca di risposte, mm, e poi perlustrano i loro portafogli, ecco, in cerca, grazie, di qualche monetina. Fan comodo anche quelle per riuscire a pagare i conti 300.000 euro. Ma se non hai 300.000 euro da investire nelle tue emozioni, stai a casa tua. Vabbè, stai, sì, a casa tua. Ho visto un influencer milionario a lanciare una colletta tra i suoi follower per riuscire a pagare il coperto. Un timido nonnino che faceva il mangiatore di coltelli sperando di essere portato a pronto soccorso invece che alla cassa. Che banalità. Eppure, come dico sempre al desco di Nietzsche, non si viene per mangiare, si viene per esperire l'incanto dei sensi. Per esempio, vuoi delle banali trofie al pesto? Vai al bar all'angolo, quello col menù scritto sulla lavagna. Noi, ecco, invece, ecco, facciamo le trofie. Ottime. Al resto. Come al resto? Allora andiamo dal fruttivendolo, chiediamo 2 euro di basilico, lo paghiamo con una banconota da 500 euro, così abbiamo 498 euro di resto da spendere per il condimento. Ma ho capito, ma le trofie al resto. Emozionale. Emozionale per lei. Ma allora, ho sentito invocare il mio nome, sono qui a donarvi una delle mie creazioni. Il titolo è Mistica dei Sapori. Mistica dei Sapori. Dovremmo inventare anche una sigla per, allora, Mistica dei ingredienti. Sapori. 0,50 mg di pane, 0,027 mg di cioccolato. Ma come 0,50? Se non riuscite a misurare con le quantità d'occhio, potete chiedere in prestito il bilancino di un farmacista di fiducia. O anche lo spacciatore sotto casa, siete in intimità. Va bene. Allora, il pane è immagine del bisogno di nutrimento dell'uomo nella teologia. E rappresenta quindi il sacro. Il sacro, vabbè. Il sacro. Se lo dice lei. E il pane, no? Il pane, certo. Ecco, si faccia una cultura, sì, invece di sproloquiare alla radio. Il cioccolato, fonte di piacere, simbolo di trasgressione, diventa significante del concetto stesso di profano. 0,027 mg. Prendete gli 0,50 mg di pane e versatevi gli altri 0,027 mg di cioccolato. Che cosa succede? Forse penserete di aver preparato una merenda a base di pane e cioccolato. La merenda, un milligrammo di avete merenda. Creato un connubio ardito, di certo risolutivo dell'eterna lotta tra sacro e profano. Il sacro, sì, del pane, il profano del cioccolato, e voilà. Voilà, voilà. La creazione è compiuta. Creazione, a vederla, cioè. È un'esperienza emozionale. Sì, ho capito. Ma ci vuole il microscopio. Venite ad esperirla al desco di Nietzsche. Potete prenotare sul sito, dove potete anche trovare il mio libro Dio c'è. Costa 18.000 euro. Ma come 18.000 euro? Scusi, ma lei insomma come ragiona? In genere un libro costa 16 euro, 18 euro, 20 euro. Ma come 18.000 euro? Ma lei naturalmente è un farabutto. Ha una funzione anche terapeutica. Altro che preludio. Terapeutica. Costa, sintesi, come un'utilitaria, qualcosa, sì, in più, ma vi farà andare molto più lontano. Vabbè, un'esperienza, sì, emozionale di altissimo livello. Reazione al microscopio elettronico di pane e cioccolato, poi no, lei ha inventato. Non è pane e cioccolato, mamma mia. No, magari fosse pane l'eterna e cioccolato. L'eterna lotta tra sacro e profano. Quindi vi aspetto al desco di Nietzsche insieme a mia moglie Benedetta Assunta Intingolo Paciulli. Tutto questo per un conto che si aggira 250.000, facciamo, dai. Sono in vena di bontà in questi tempi di virus. 250, appunto, con il virus la gente viene a Pannocchio di Castelbiondo. Se lei ben ricorda, sì, noi già avevamo detto l'anno scorso che i tavoli sono tavoli da uno, ben distanziati l'uno dall'altro. E se uno viene in due? Non può. Un po' come. Perché se sei, stai lì a provarci con la tua amichetta, no, non puoi gustare le mie creazioni. Vabbè, ho quindi capito. Ti metti in tavoli separati, arriva il mio maestro completamente vestito di cashmere, anche le mutande, anche l'estate. Ricordo sempre che una volta sono andati a fuoco i coglioni. puoi gustare le mie creazioni. Va bene, caro preludio e nonché sintesi. Oddio, c'è. La ringraziamo. Oh, senti che gioia, è venerdì. Che volgarità, mamma mia. È venerdì, che bello. Va bene, caro preludio, venga a trovarci quando desidera. Noi siamo qui, ci fermiamo. Buon weekend a tutti. Siate prudenti, ma anche sereni, dai, sereni. E ci troviamo lunedì. Ale, lunedì. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Nessuno, 100.000 anni.